Ciao a tutte e tutti. Oggi parliamo di un fumetto pubblicato da qualche mese da Maledizioni che si chiama Gli anni difficili di Max de Rodriguez. È un fumetto piccino, quadrato, di 144 pagine, pubblicato, come abbiamo già detto, da Maledizioni al costo di 14 euro, tradotto da Elisabetta Mongardi. E ne parliamo insieme a Matteo Gaspari, che è un critico del fumetto, già amico di Tabula Rasa, curatore della collana dei fumetti di Ad Editore, che ha collaborato a questa edizione degli anni difficili insieme appunto agli editori. Il primo fumetto edito in Italia di Max de Rodriguez è stato Obomom nel 2014. Pubblicato da Delebile, che è una piccola casa editrice indipendente. Obomom, che è stato scritto e disegnato da Max de Rodriguez e Charles Forsman. E appunto dopo tanti anni, a fine del 2021, Maledizioni, in collaborazione, diciamo, con te, pubblica questa sorta di raccolta di racconti in cui l'autore ci parla di adolescenza. Gli anni difficili, come diciamo, come opera nasce come fanzine in Belgio, nasce, quindi è una collezione di libretti stampati e inviati tra il 2009 e il 2010 dall'autore ai suoi lettori. Ed è un'opera che racconta gli stati d'animo e i primi sentimenti di un gruppo di ragazzi, di adolescenti, verso le ragazze negli anni della scuola. Sono divertenti, ma sono anche un po' crudeli, commoventi. Questi personaggi sono molto leggeri nella propria espressione, ma che un po' simboleggia anche la loro età. Ma questa leggerezza, insomma, sembra mascherare delle ansie, delle domande. Insomma, è un fumetto che almeno a me è risultato abbastanza profondo. E Matteo, intanto ciao. Ciao, grazie mille di avermi qui. Grazie, grazie. Grazie a te. Ti volevo chiedere, ci racconti come sei venuto, diciamo, a conoscenza di questo fumetto, cosa ti ha affascinato? Sì, dunque, mi ero imbattuto in questo fumetto qui diversi anni fa ormai, quando appunto eravamo assieme a Lorenzo Ghetti e a Elisabetta Mongardi, che poi l'ha tradotto. Avevamo appena avviato Bananoi, che era questa rivista online di critica di fumetto, ma anche che pubblicava online i fumetti che erano inediti in Italia. E proprio all'inizio di questa avventura qui c'è stata questa fase di brainstorming di cosa pubblicare, in che direzione andare, perché volevamo pubblicare sia delle storie brevi, ma potenzialmente anche delle storie più lunghe. E tra i vari titoli che erano stati messi sul tavolo, questo nello specifico l'aveva proposto Lorenzo Ghetti, che poi si è occupato anche del lettering dell'edizione italiana, che diceva: Max de Rodriguez, appunto, a parte, come citavi giustamente, a parte Obomam per Delebile, in Italia è quasi sconosciuto, invece. L'Âge d'Or, che era il titolo originale, secondo me è un fumetto clamoroso e sarebbe bellissimo che ci fosse. Quindi l'ho letto e non potevo che essere d'accordo con lui, nel senso è una serie di raccontini brevi, molto, appunto, molto leggera, ma anche molto profonda, come dicevi giustamente, che ha questa capacità incredibile di cogliere quel momento lì della vita, no? Cioè proprio di raccontare quel momento lì, quegli stati d'animo lì, quel momento di passaggio che è l'adolescenza, che è sempre diversa, sempre uguale in qualche modo. E quindi ci eravamo messi in contatto con Max e con l'employé du mois, che lo pubblica in Belgio, per pubblicarlo online, proprio con l'intento di metterlo online gratuitamente, nella speranza che poi qualche editore, diciamo, raccogliesse la sfida per farne poi una versione di carta. Cosa che è effettivamente successa, appunto, adesso con Maledizioni, e che diciamo, anche loro erano rimasti molto colpiti dalle storie di questi ragazzi. Ma un piccolo festival del fumetto, che è proprio il nome del festival di Cremona, qualche anno fa, Luigi mi disse: Guarda, saremmo interessati a fare una versione di carta degli anni difficili, e cosa ne pensi? Allora lì siamo messi a... Io Lorenzo e Elisabetta eravamo entusiasti e ci siamo subito messi al lavoro, insomma. Poi la pandemia ha ritardato tutto un po', ha fatto esitare un po' tutto quanto, però insomma è finalmente qui di carta. Siamo molto felici di questa cosa. No, anch'io sono molto felice perché io l'avevo letto in inglese appunto qualche anno fa, l'aveva portato in Italia Justin D. Comics, l'avevo visto da lì, e mi era sembrato un fumetto, diciamo, molto diverso da quelli a cui diciamo sono abituata a livello appunto di graphic novel, ma proprio perché non è una vera e propria graphic novel, perché sono appunto una specie, sono tutti raccontini che compongono appunto un'unica grande storia, dove non ci sono eroi, non c'è una vera e propria linearità, le storie a volte non hanno neanche una vera e propria fine, però quello che mi è piaciuto molto, dimmi se sbaglio, è che sembra proprio che l'autore ami questi suoi personaggi, li tratta con una delicatezza incredibile, e appunto il periodo poi che l'autore descrive, che è questa adolescenza, che è, come dicevi anche tu, che è uguale per tutti e diversa per tutti, viene compresa sempre, quasi sempre dopo, quando finisce, però ho trovato molto interessante la vostra prefazione, quella che avete, scusami, postfazione, che avete scritto tu e Lorenzo Ghetti, in cui appunto raccontate il modo in cui secondo voi Max de Radiges ha descritto l'adolescenza. Non so se ce ne vuoi parlare. Sì, cioè secondo me questa cosa è esattamente quello che dicevi prima, no? Cioè si percepisce proprio che lui gli vuole bene a questi personaggi qui, cioè sono proprio... cioè non sono né delle figurine messe lì per avere un valore simbolico, cosa che non è, cioè non è mica sbagliata, però diventa un'altra cosa, né sono, come dire, degli strumenti per far avanzare una trama. Sono proprio dei personaggi a cui lui vuole un sacco bene. E questo, in questo fumetto, ma anche negli altri fumetti di Max che parlano di quel momento della vita, si percepisce molto. E l'effetto, come appunto dicevamo, cercando di mettere un po' in fila io e Lorenzo, perché ci aveva colpito così tanto questo fumetto, l'effetto appunto è che molto spesso nelle storie che toccano l'adolescenza si è o incredibilmente vicini, cioè in cui tutto è fortissimo ed è come raccontare l'adolescenza standoci dentro in un qualche modo, oppure sono storie molto spesso nostalgiche, come della, diciamo, dell'adulto che si guarda indietro e si ripensa quando era adolescente, dice: ah, pensa a te quanto tempo è passato, no? E invece Max non fa nessuna di queste due cose, cioè ha veramente la capacità di cogliere quel momento lì stando alla distanza giusta dai personaggi, che quindi non sono più non sono i personaggi della sua adolescenza che lui guarda con rammarico e con nostalgia, ma non sono nemmeno i personaggi di un'adolescenza attuale di adesso che ti coinvolgono in un turbinio di emozioni, no? Cioè proprio è la distanza giusta che gli permette di raccontare, di distillare quei momenti lì e li fa diventare particolarmente veri, cioè questi personaggi si pigliano a cazzotti prima della foto di classe ed è un momento molto vero, cioè anche se magari non c'è successo, no? Cioè, quindi quella distanza lì gli permette di essere vero anche se non sta raccontando cose che magari ti sono successe per davvero, no? Cioè non c'è bisogno di immedesimazione per il lettore, diciamo, adulto, per trovare la verità di questi racconti, né c'è bisogno di essere nel turbinio emotivo ed ormonale dell'adolescenza per riconoscersi in quella cosa lì. Proprio quella distanza lì è come se avesse trovato veramente l'angolazione giusta e il distacco giusto per permettere a quell'amore per i personaggi di cui parlavi di trasparire del tutto. Sì, infatti voi scrivete, sembra quasi che lui sia seduto nel cortile a guardare, no, quello che succede, e rileggendolo effettivamente, pur non essendo io una belga, e quindi essendo cresciuta a Roma, ho ritrovato anche io tantissime, tantissime cose che comunque le fai e non ti rendi conto in adolescenza, ad esempio sedersi sempre per terra. cosa sì. che a me hanno sempre sgridato, mi hanno sempre sgridato per questa cosa. Io ero continuamente seduta per terra e a ripensarci adesso, in effetti, vedo che è una cosa comune, mi ha fatto piacere. E, purtroppo siamo in radio, quindi non possiamo far vedere come è stato disegnato questo fumetto, però possiamo dire che il disegno è molto semplice. E, anche il lettering è molto sobrio, fatto a mano, in questo caso nella versione italiana abbiamo detto da Lorenzo Ghetti. E anche il libro ha un formato piccolino e sembra tutto un po' in armonia con la dimensione della memoria, dell'intimità. E sembra tutto studiato per creare una certa atmosfera, secondo me. E poi, non so, io sto per farti questo paragone, dimmi tu se, se un po' ti ci ritrovi, perché il modo di narrare, anche di disegnare, mi ha ricordato, mi ha fatto pensare ai Peanuts. Ai Peanuts cresciuti, come se ci fosse una sorta di secondo tempo dei Peanuts quando loro hanno 14 anni. Chiaramente è tutto molto diverso, però c'è qualcosa, c'è una certa delicatezza e una certa ingenuità e tenerezza che in qualche modo mi ha ricondotto alle narrazioni di Schultz. E anche la parte visiva in qualche modo mi ci ha riportato. E anche la veridicità dei dialoghi, che spesso nelle produzioni sull'adolescenza non sono fatti sempre benissimo, non so, beh, tipo non so, Dawson Creek, no? Che parlano come cinquantenni. Sì. Non so, tu che ne pensi? Ti ha fatto ricordare, ti ha ricordato anche a te qualcosa? Che ne pensi di questo stile? Allora, cioè, io in realtà non, cioè, diciamo, non ci avevo veramente tanto pensato in questi termini. Però, però a pensarci adesso, diciamo, ci sono delle cose che accomunano tantissimo, pur con tutte le differenze che dicevi prima, in senso estetico, ma anche di forma, cioè quelle dei Peanuts di Schultz sono proprio delle strisce, per cui con tutte le differenze del caso, però ci sono delle cose che accomunano questi due modi di raccontare, secondo me. Cioè, il primo è di nuovo l'amore per i personaggi, cioè proprio che sono personaggi a cui è impossibile non voler bene, perché è evidente che anche l'autore gli vuole bene, cioè in qualche maniera questa cosa emerge. E l'altra cosa che secondo me accomuna in maniera molto forte questi due titoli, con tutte le loro differenze, e che secondo me li rende, diciamo, meglio di tanti altri racconti per o sull'adolescenza, è che non hanno un obiettivo, cioè non c'hanno un'agenda nascosta, come dire, di ti sto raccontando una storia, però in realtà ti sto insegnando questa cosa, o ti sto cercando di far passare questo messaggio, o ti sto cercando di convincere che bisogna comportarsi in un certo modo, no? Cioè, non sono storie finalizzate a, sono storie per essere delle storie, che è una cosa che si trova sempre meno spesso, soprattutto nei fumetti, un po' anche nella letteratura, ma nei fumetti tantissimo, nei fumetti per giovani lettori e giovani lettrici. Cioè, è un'idea di lettura che è molto strumentale, poi, no? E invece è una cosa che sia nei Peanuts di Schultz che negli anni difficili, ma anche, che ne so, in Calvin e Hobbes. Cioè, è proprio completamente assente. Cioè, sono proprio degli spaccati che riescono molto bene ad essere degli spaccati, perché nel momento in cui non hai più l'obiettivo, ti sto raccontando questa cosa per ottenere questo obiettivo, allora è anche più facile essere verosimili, no? Nei dialoghi, nel modo delle interazioni, perché l'unico interesse che hai è di rendere giustizia a quei personaggi e di farli vivere senza nessun altro sotterfugio, senza nessuna necessità di arrivare da un punto A a un punto B, è solo lasciarle andare. Poi sono personaggi che, diciamo, è difficile non amare, perché affrontano tutta una serie di problematiche adolescenziali comuni, ma fanno delle cose stupidissime e meravigliose, tipo c'è anche nel retro di copertina, c'è questo personaggio biondo, maschietto, con i capelli lunghi, che tenta per tutto il tempo nel fumetto di fare canestro con la palla, perché se la palla entra nel canestro, Claire uscirà con lui. Oppure c'è un altro personaggio che forse è il mio preferito, che si mette la maglietta bagnata appena stesa dalla madre, prova ad asciugarla con il phon, ma non c'è niente da fare, la mette bagnata, però solo perché ci sarà appunto la foto di classe che citavi tu prima. Quindi ci sono veramente dei personaggi a cui, nonostante la brevità poi del fumetto e delle storie, dei dialoghi, è tutto molto, se vogliamo, anche veloce, non puoi non amare, non possono non farti in qualche modo intenerire. Sì, ma perché poi, cioè, appunto, tutte le adolescenti sono diverse, ma sono anche un po' tutte uguali, come dicevamo prima, no? Cioè, la cosa del... è importante che la maglietta per la foto di classe sia proprio questa, cioè, non può essere nessun'altra, è quella lì. Cioè, è una cosa che in una qualche misura, appunto, la percepisci come vera, anche se il tuo punto non era la maglietta, no? In quel momento specifico. La scena che citavi del canestro, credo che invece sia quella la mia preferita, perché poi c'è una soluzione clamorosa, e, insomma, cioè, senza fare spoiler, ma cioè, lui non riuscirà a far canestro. Ovviamente. E ha una soluzione che è talmente intelligente pure nella sua sfrontatezza, cioè nella sua onestà e nella sua sfrontatezza, che ve la lascio scoprire in autonomia. E, appunto, cioè, c'è tutta questa onestà qui, cioè è proprio un fumetto onesto, non saprei dirlo meglio forse. No, sono d'accordo, e anzi sono molto contenta che sia stato pubblicato e che possa, insomma, girare, perché è un'opera, appunto, come dicevamo anche prima, molto diversa da quelle a cui siamo abituati. Mi è piaciuto anche che avete cambiato la copertina. Mi ricordo che l'originale erano due che si picchiavano, quindi sì. Adesso sono una coppia che si dà un bacino, quindi insomma, sono veramente contenta. Matteo, io ti chiederei, se ti va, un'ultima cosina, ti chiederei se ci vuoi consigliare un fumetto che hai letto recentemente e che ti è piaciuto, la nostra domanda di rito, insomma. Sì, allora, non è veramente letto super di recentissimo, però ormai ci siamo, cioè va bene lo stesso, spero. E però secondo me si sposa bene per tutti i discorsi che stavamo facendo prima, per cui il fumetto che mi sento di consigliare era Il nostro patto. Di Ryan Andrews, è uscito da relativamente poco per il Castoro, ed è un bellissimo fumetto per ragazzi e ragazze, è proprio bellissimo a partire dai disegni, cioè dall'impatto visivo, ed è un fumetto che per tantissimi versi risponde a quello che dicevamo prima, cioè è un fumetto che racconta una storia che non ha nessuna... cioè, che fa emergere le cose senza dover essere il libro a tema sull'amicizia. È una bellissima storia, è una bellissima avventura, una bellissima storia di amicizia, con una componente fantastica che è impossibile non rimanerne stregati. C'è un sacco di personaggi clamorosi che ti rimangono dentro anche a lettura ultimata. È proprio una grandissima avventura, come se ne leggono veramente troppo poche ormai. E per cui, visto che si parlava di fumetto per e di ragazzi, secondo me questo è uno dei migliori titoli in questo senso che sono usciti da un bel po' a questa parte. Pubblicato dal Castoro, abbiamo Dal detto. Castoro, sì, verso anche questo fine 2021. 2021. Ok, ti ringrazio. Volevo fare una piccola nota finale, leggermente off topic. Volevo dire, diciamo, al nostro pubblico che Matteo Gaspari cura la Banana Mail, cioè la newsletter di fumetto di Banana Oil, che arriva ogni 2 settimane. Quindi, se vi piacciono i fumetti, se vi interessa scoprire nuove cose, vi consiglio di iscrivervi, perché è una newsletter ricca di curiosità, interviste e consigli che non fanno mai male. E Grazie. poi Matteo ci sta molto simpatico. E quindi io ti ringrazio tanto, come sempre, per aver collaborato con Tabula Rasa, e spero di riaverti Grazie presto a voi per avermi ospite. aiutato, questo momento molto divertente. E alla prossima, ti Grazie ringrazio. mille. Allora, grazie a tutti, a presto. Grazie, grazie. Ciao. Ciao, ciao, ciao.